Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis, nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. La notte del 5 maggio. Seduto su un frammento di roccia, guardavo il castello che si drizzava alto in piena luce, le merlature che la luna argentava, le vecchie torri cadenti cerchiate di nuvole bianche, le grandi porte nere spalancate in attesa dell'ospite soprannaturale, mi riempivano di un muto e potente orrore. Incapace di sopportare il lento incedere del tempo, lasciai il mio osservatorio e mi arrischiai a fare il giro del castello. Non si vedeva ancora nessuna luce, ma alzando gli occhi alla finestra misteriosa, mi parve che si animasse, e più che vedere, sentii muoversi una forma bianca che dalla sagoma pareva somigliare al fantasma come l'avevo visto nel disegno. Subito scomparve, ma nello stesso momento un bagliore intermittente si spostò da un piano all'altro, passando davanti alle luci delle scale. Il bagliore attraversò la grande sala e quando ne uscì apparve Agnese. Ancora pochi secondi e l'avrei stretta tra le mie braccia. Era vestita esattamente come la monaca. Un velo bianco le cadeva sul viso e mi nascondeva i suoi lineamenti. L'abito era ammarezzato di larghe chiazze rosse. Reggeva con una mano una lanterna bassa, con l'altra un grande pugnale. Le volai incontro e sollevandola nelle mie braccia le dissi precipitosamente: «Agnese, Agnese, sei mia e sono tuo. Finché il mio cuore pulserà, finché il sangue mi scorrerà nelle vene, ti appartengo e sei mia, e tua la mia anima, il mio corpo, e tua la mia vita». La carrozza ci aspettava. Teodoro ci spinse dentro e chiuse la porta. I postiglioni, muti, indifferenti, frustarono i cavalli e l'equipaggio partì a gran carriera. La campagna volava via, la ghiaia grattata dalle ruote veloci martellava i vetri mal serrati, la notte si chiuse intorno a noi, il cielo si era coperto all'improvviso. I gemiti delle puleggie facevano una musica stridente, si alzò un vento furibondo. Spaventato, lasciai un momento Agnese per picchiare ai vetri e dire ai postiglioni di trattenere i cavalli. Non mi sentirono. Vidi ancora per un poco le loro ombre agitarsi davanti a me e poi, a un tratto, scomparvero. Un lampo mi mostrò le groppe madide dei cavalli, vuote dei cavalieri. Folle di stupore e di paura mi girai verso Agnese. Pareva stranamente quieta e assorta. La strinsi a me e fui colpito dalla sua leggerezza. Non mi fermai a questa nuova bizzarria. Cercai di mantenermi calmo. Aprì la portiera e tentai di afferrare le briglie per fermare i cavalli, ma una terribile scossa mi sbalzò per aria e mi fece rotolare in mezzo a uno schianto spaventoso. Quando riaprii gli occhi, era giorno pieno. Alcuni contadini facevano cerchio intorno a me e parevano discutere tra loro se sarei mai tornato in vita. Mi sentivo la lingua incollata, la bocca dura, ma appena mi fu possibile articolare un suono, mi informai di Agnese. Fui preso dal panico quando mi dissero che non avevano visto nessuno che corrispondesse alla mia descrizione. Mi avevano trovato in mezzo ai rottami della carrozza, ma accanto a me non c'erano che i cadaveri dei cavalli. Li convinsi a disperdersi di nuovo e a riportarmi a tutti i costi il corpo della donna che mi accompagnava. Mi accontentarono. Quattro di loro rimasero e gli altri si sparpagliarono. Quanto a me, non potevo fare un solo gesto, non mi sentivo più né braccia né gambe e orribili fitte mi trapassavano il fianco destro. Mi informai di dove mi trovavo. Risposero che ero circa un miglio da Ratisbona. Non mi capacitavo di avere percorso tanta strada in una sola notte. E quando dissi loro che a luna di notte ero passato dal villaggio di Rosenwald, vidi che scrollavano le spalle e mi guardavano con compassione. Mi deposero su una lettiga fatta di rami e mi trasportarono in una capanna quasi alle porte della città. Poco dopo arrivò il chirurgo che mi rimise braccia e gambe a posto. Mi sentivo bruciare. Avevo le labbra terribilmente asciutte e la febbre mi divorava. Il chirurgo mi rassicurò sul mio stato, preannunciandomi però una lunga convalescenza. Trascorsero molti giorni. A poco, dallo sgomento passai al più tetro scoraggiamento. Ero entrato in una specie di stupefazione, ma sotto un'apparenza rassegnata. Ribolliva l'angoscia, compagna costante delle mie ore. Per sfuggire alle sofferenze che mi procuravano le ferite e farmi riposare, il dottore mi aveva ordinato un potente sonnifero, ma ero troppo agitato e le mie notti erano un continuo rigirarmi nel letto, svegliandomi da un incubo per ricadere nell'angoscia, senza mai trovare il minimo riposo. Una notte che seguiva una giornata ancora più affannosa e torturante del solito, mi ero finalmente assopito quando, allo scoccare dell'una, mi risvegliai. Le cortine del mio letto erano abbassate. Una veillesse bruciava in un angolo e stendeva fino a me un vago chiarore. La porta si aprì di colpo e l'orribile cosa mi fu davanti. Avanzò col suo passo di statua, senza dir parola, e subito la riconobbi. Per Cristo Dio! Era lei! Era la monaca sanguinosa! Era la compagna che avevo perduta! Sollevò il velo e vidi il suo volto spettrale, stralunato e vuoto, le mani di gesso e il sangue che le imbrattava il vestito. Non riuscivo né a tirarmi su né a gridare, i miei nervi erano come ingabbiati nell'impotenza. Fino all'ultima goccia dovetti bermi il mio spavento e lo spettro non dava segno di volersi ritirare. Mi considerava con un'aria insieme minacciosa e disperata e senza che muovesse le labbra sentii rovinarmi addosso queste parole come tanti colpi di pugnale. Raimondo, Raimondo, sei mio e sono tua, finché il mio cuore pulserà, finché il sangue mi scorrerà nelle vene, sono tua e tu mi appartieni, è tua la mia anima, il mio corpo è tua. La mia vita. Nell'udire e ripetere le mie stesse parole, pensai di aver raggiunto l'estremo confine dell'orrore, ma lo spavento non si calmava. La monaca rimaneva là e pareva compiaciuta di mantenermi in quello stato di torpore magnetico nel quale mi aveva immerso la sua apparizione. Quando l'orologio batté due colpi, si piegò su di me e sentii le sue gelide labbra posarsi sulle mie. Avevo toccato il fondo. Sprofondai nell'incoscienza con un gemito sordo. Raimondo, Raimondo, finché il mio cuore pulserà. Per mesi e mesi, ogni notte alla medesima ora, religiosamente giungeva l'apparizione e la accoglievo con la stessa trance, lo stesso terrore, e dimagrivo e deperivo. Forse vi stupisce che per tutto quel tempo non avessi mai cercato di avere notizie di vostra sorella. Teodoro, il quale dopo molte peripezie era riuscito a scovarmi, me le aveva portate, ma mi aveva anche detto che dovevo rinunciare alla speranza di liberarla finché non fossi stato in grado di tornare in Spagna. Alle domande ansiose sugli avvenimenti che avevano seguito la mia partenza dal castello, mi fece questo racconto. Non appena la carrozza fu partita, portandosi via me e il fantasma, Teodoro se n'era tornato allegramente al paese e l'indomani aveva riportato Cunegonda al castello. Vi trovò un grande subbuglio e una grande eccitazione per gli avvenimenti notturni, di cui nessuno riusciva a trovare una spiegazione. Agnese, trattenuta da un contrattempo, era partita dalla camera della monaca pochi minuti dopo il suo passaggio. Seguendo la sua stessa strada, era arrivata senza ostacoli al luogo dell'appuntamento, ma lì, con suo grande stupore e costernazione, non mi aveva trovato ad attenderla. Così visitò la grotta da cima a fondo e girovagò per 2 ore nei sentieri del bosco vicino. Disperata, si era finalmente risolta a tornare indietro, ma l'ora dello spettro era passata, l'orologio aveva già suonato 3 e tutte le porte del castello erano chiuse. Decise di svegliare il portiere, il quale, sentendo dei colpi violenti alla porta, si alzò e venne ad aprire brontolando contro chi lo disturbava a quell'ora, ma aveva appena aperto uno dei battenti e visto Agnese nel suo lugubre travestimento che cadde riverso, credendo di aver aperto al fantasma. Agnese lo scavalcò e salì in camera sua, dove, spogliatasi rapidamente, si mise a letto e almanaccò fino all'alba sulle ragioni della mia scomparsa. All'oscuro dei miei veri sentimenti e convinta di essere stata presa in giro e poi abbandonata, vostra sorella non oppose più nessuna resistenza alle pressioni esercitate da tutte le parti per persuaderla a prendere il velo e dopo aver aspettato ancora 1 mese e sperato contro ogni speranza, accettò di seguire il padre a Madrid. Teodoro seguì di città in città le mie tracce e gli ci volle tutto il suo straordinario istinto per ricostruire il mio favoloso itinerario. Non giunse da solo, ma con uno strano uomo che volle parlarmi. Di quest'uomo ammiravo l'energia e la profonda saggezza dei suoi lineamenti. Mi si avvicinò, mi prese la mano e disse: «Niente mi è ignoto di quel che vi riguarda. E io solo ho il potere di cacciare lo spettro che vi tormenta, ma dovrete aspettare domenica, nell'ora che inaugura il giorno del riposo. Il potere dei morti si estenua. In quel momento sarò vicino a voi e dopo sabato, ve lo prometto, la monaca non vi visiterà più». Poi si congedò. Tornò soltanto 3 giorni dopo. Per non destare sospetti mi ero coricato e avevo congedato i domestici, ma verso la mezzanotte mi rivestii e attesi con ansia il suo ritorno. Al tocco della mezzanotte comparve. In un primo momento pensai che fosse la monaca, ma la calma che sentivo in me mi rassicurò. Venne avanti e mi salutò senza parlare. Teneva in mano un cofanetto di legno nero che depose vicino alla stufa. Poi fece qualche passo verso il centro della stanza per orientarsi. Girando lentamente intorno a se stesso, tracciò qualcosa come un cerchio invisibile e ne coprì l'orlo di una moltitudine di croci. Poi si rialzò, prese il cofanetto che aveva lasciato sulla stufa, lo aprì e ne tirò fuori un crocifisso, una Bibbia e infine una fiala piena di un liquido opaco e vischioso. Posò in mezzo al cerchio un cranio minuscolo e vi dispose intorno un certo numero di ossa umane. Allora immerse il crocifisso nella fiala e con questo spruzzò il pavimento del liquore che conteneva. Poi, buttandosi di nuovo per terra e sempre più animandosi, girò un'altra volta su se stesso mentre il Cristo lasciava sull'orlo del cerchio immaginario una densa striscia di sangue. Il pavimento si colorò ben presto di un largo cerchio rosso mirabilmente disegnato. Gli orli erano divisi in caselle ineguali e dentro ciascuna luccicava una croce di ossa. Quando ebbe finito, si drizzò in piedi e mi disse di raggiungerlo. Pervaso da un sacro terrore, gli obbedii senza dir parola. Finalmente suonò 1. Udii il passo consueto della monaca, ma aveva ormai qualcosa di incolore e di familiare che quasi mi rassicurò ed ebbi voglia di provare pietà per il mio spettro. Penetrò nella camera e si avvicinò al cerchio che pareva opporgli un'insolita resistenza. «Beatrice, che vuoi da noi? Io te lo ordino. Parla! Che cosa turba il tuo sonno? Perché perseguiti questo sventurato?» Proferì con voce solenne su un tono acuto e lacerante. Lo spettro sospirò a lungo, ma non rispose. «Beatrice! Beatrice!» Il suo tono era di insostenibile acutezza e pareva succhiarlo fuori da se stesso. E nel momento in cui lanciò il suo richiamo, lasciò cadere il crocifisso, respinse la Bibbia e si strappò la benda che gli cingeva la fronte. Immediatamente mi sentii precipitare e vidi davanti a me lo spettro accasciarsi e unire le mani in segno di supplica. Un fuoco maligno e feroce balzò su di me come se tutta la malvagità degli abissi celesti avesse preso per colpirmi la penetrazione stessa della luce. Il mio spirito, la mia anima, le mie facoltà, tutto quello che mi dava la sensazione di esserci, di aderire a qualcosa, di star sospeso, di andare, di venire, di resistere, tutto era tagliato in forma di croce. Era una lacerazione ardente che mi ispirava come una follia di dissolvermi senza che l'eternità bastasse a consentirmelo. E questa eternità durò un batter di palpebre e quando riaprii gli occhi il mago mi reggeva la testa col suo pugno chiuso e la monaca stava per lasciare la stanza. Il mago aveva ripreso il crocifisso. Il giorno sorgeva. Un gallo cantò in lontananza, il fantasma fissò il cielo con uno sguardo pieno di cupa desolazione e nella camera chiusa queste parole mi giunsero col vento fresco del mattino. «Pietà, pietà», diceva la voce dell'ombra, «siete il più forte, mi sottometto, tuttavia abbiate pietà della mia spoglia e sappiate che le mie ossa marciscono in un punto sperduto della fossa di Lindenberg. A questo giovane incombe il dovere di ordinarne la sepoltura. È lui che ho cercato attraverso i secoli. È mio. Le sue labbra me l'hanno giurato e mai lo scioglierò dalla sua promessa. Continuerò a popolare le sue notti di incubi e terrori finché non mi avrà sepolta». Il mago abbassò il crocifisso che con i due bracci pareva esercitare sullo spettro un influsso magnetico e l'apparizione piegò la testa in segno di assenso e si dissipò gradatamente nell'aria. L'esorcizzatore mi sollevò di peso e mi pose fuori dal cerchio. Poi, rimettendo nella sua scatola il crocifisso, mi disse più o meno questo: «Sappiate che Beatrice della Cisternas» — e a questo nome lo guardai ammutolito dallo stupore — «era la prozia di vostro nonno. Prese il velo molto presto, non di sua volontà, ma su ordine espresso del padre. Allora era troppo giovane per rendersi conto dello stato di schiavitù fisica e morale cui si condannava. Ma un giorno la natura riprese il sopravvento ed ella si abbandonò senza vergogna a tutta la frenesia delle sue passioni. Conobbe, non si sa come, il barone di Lindenberg, ne divenne l'amante ed egli, dopo un memorabile rapimento, se la portò in Germania. Là i suoi disordini persero ogni freno. Ogni notte era il teatro di feste orgiastiche, spettacoli sacrileghi, la licenza più sfrenata e il lusso più ingiurioso. Vestita da monaca, evangelizzava i suoi convitati, scimmiottava le cerimonie sacre e le traduceva in riti osceni. Un giorno quella Circe perniciosa prese coscienza che il barone, suo amante, aveva un figlio di primo letto che proprio allora si affacciava al fiore dell'età e decise di non privarsi oltre del piacere di concedersi a lui, salvo che quel figlio era morente. Non si sa chi fu il delatore che informò le orecchie degli inquisitori del mostruoso desiderio della monaca. Bisognava spogliarla di ogni possibilità di salvezza e, perché la sua rovina fosse completa, provocare in un modo o nell'altro, ma sempre indirettamente, la morte nell'impenitenza e fare di quella morte un tremendo esempio ai libertini, una remora e un insegnamento agli esitanti e ai deboli, e soprattutto un'immagine di conforto per gli altri, i giusti, i predestinati. Così il prete, che serviva alle messe nere della baronessa, senza per questo aver rotto i rapporti con la Chiesa, di cui era fedelissimo e discretissimo emissario, seppe ispirare al barone il salutare terrore di una morte forse ormai prossima, e riuscì a metterlo a parte dei suoi progetti. Lo convinse a proibire a chiunque di avvicinare il figlio morente. Poi, quando quello fu spirato, annunciò pubblicamente la sua imminente guarigione e intanto per tutti i conventi d'Europa si andava cercando pazientemente un novizio alto e forte, di bell'aspetto e il più possibile somigliante al morto. Il Papa lo sciolse dai voti e gli rese la libertà, ordinandogli di peccare per il bene della Chiesa e la salvezza dei giusti. Lo condussero nottetempo al castello di Lindenberg e poco dopo, nel mezzo di un'orgia notturna, il barone lo presentò ai convitati come il figlio, non guarito, ma per così dire resuscitato. Tutto si compì secondo le previsioni. La baronessa subito si accese di lui e la conclusione non si fece attendere, ma il falso baronetto, l'ex novizio, per un attimo sgomento di fronte all'improvviso scompiglio dei sensi, subito si riprese. Mantenne quanto fu possibile la sua complice in uno stato di delirio favorevole ai suoi progetti, la baronessa. Circondata da un'opulenza e da un fasto che non le spettavano, era in fin dei conti niente più che una concubina e bruciava dal desiderio di regolarizzare la sua situazione nel feudo di Lindenberg. Le diede appuntamento per il 5 maggio di quell'anno a mezzanotte nel luogo chiamato la Fossa di Lindenberg. Là l'avrebbe attesa con alcuni amici bene armati. Ella vi avrebbe portato il suo sposo, che avrebbero pugnalato, facendone poi sparire il cadavere. Vestita da monaca, armata di un pugnale e reggendo alta nella mano sinistra una lanterna per illuminarsi la strada, Beatrice penetrò all'ora stabilita nella grotta dove gli spadaccini avevano teso l'agguato. Spingeva innanzi a sé il suo povero sposo, che non so per quale groviglio scoppiato nel suo cervello aveva perso ogni coscienza di sé. Egli entrò nella grotta come un automa e improvvisamente Un assurdo impulso lo spinse a ridere a gola spiegata. La reazione fu immediata. La baronessa che lo seguiva fu come lui scossa da quel riso e con un colpo brutale, quasi meccanico, gli tuffò 3 volte il pugnale nel cuore. La monaca non aveva fatto un passo e fissava senza turbamento il suo nuovo amante, il quale, senza un attimo di esitazione, è come se eseguisse i gesti di una parte imparata da tanto tempo, strappò dalle sue mani il pugnale e glielo tuffò 3 volte nel cuore. Poi lo gettò lontano, si asciugò sulla cuffia della suora e fuggì senza voltare gli occhi. Quando il mago ebbe finito il suo racconto, i primi raggi del sole nascente inondarono la stanza. «Non ho bisogno di dirvi altro», concluse alzandosi in piedi. «Avete ora in mano tutte le fila di questa storia straordinaria. Vi prego, chi siete? Non avrò pace finché non mi avrete dato la chiave di quest'altro mistero». «Aspettate solo qualche ora», mi rispose, «e domani, a mezzogiorno, le tenebre che ancora pesano su questa storia saranno dissipate per sempre». E su queste parole mi lasciò. L'indomani mi alzai molto presto, ripromettendomi nuove delizie dalla visita del prodigioso sconosciuto, ma a mezzogiorno Teodoro irrompe nella stanza completamente sconcertato e mi dice che l'esorcizzatore è stato visto galoppare a molte miglia da Ratisbona più o meno allo spuntare del giorno. Da allora la mia salute si ristabilì molto rapidamente. La monaca sanguinosa non rinnovò le sue visite e poco tempo dopo fu in grado di raggiungere il castello di Lindenberg, dove il barone mi accolse come un figlio. Ritrovai con un brivido lo scheletro di Beatrice nel luogo che mi aveva indicato e me lo portai in Spagna. Le sue spoglie occuparono nella tomba di famiglia il posto che le spettava e una volta dette le 30 messe mi fu finalmente possibile consacrarmi alla ricerca di Agnese. La ritrovai dopo 1000 peripezie laddove stavate andando voi oggi. La avvicinai vestito da giardiniere. Una sera mi sacrificò la sua virtù. «Fratello, lasciatemi finire e moderate la vostra collera. Leggete questa lettera. Raimondo, non volevo più pensare a voi se non con odio, ma ora non posso più farlo. E il piccolo essere che vive in me mi ordina di perdonare suo padre. Tremo all'idea della vendetta della badessa e siamo perduti se il mio stato viene scoperto. Consigliatemi voi, ma senza cercare di vedermi. Com'è crudele la mia situazione. Certo, la morte del mio povero padre, sopravvenuta da quando ci siamo visti, fa cadere un grosso ostacolo e non ho più niente da temere dalla sua collera, ma la collera di Dio. Oh, Raimondo, chi me ne garantirà? Scrivetemi, mio sposo. Ditemi che la lontananza non ha indebolito il vostro amore, che farete tutto per sottrarre alla morte il bambino che sta per nascere e la sua madre sventurata. Aspetto ansiosamente la vostra risposta. Il modo migliore per farmela avere è di infilarla sotto i piedi della grande statua che si trova nella chiesa dei Cappuccini. Tutti i giovedì vado a confessarmi e troverò l'occasione di prendere la vostra lettera senza attirare l'attenzione. Arrivederci, mio carnefice, adorato Agnese». Lorenzo restituì la lettera senza dire una parola, ma la sua fronte era corrugata. Vi nasceva un pensiero profondo, come di qualcuno che sente destarglisi in petto dei sentimenti fino allora insospettati. Il marchese ripose la lettera e proseguì: «Ho appena ricevuto un'altra lettera dal cardinale di Lerna che mi annuncia l'arrivo del decreto di revocazione. Ormai è questione di giorni, ma il cardinale mi mette in guardia contro l'irritazione della superiora e un possibile tradimento da parte sua. Mi consiglia di rapire segretamente Agnese dal convento nel timore che la superiora la trattenga con la forza e cerchi di eludere l'ordine del Papa. Ho la chiave della porta del giardino e la lettera che mi avete visto nascondere questa sera avverte Agnese dei miei preparativi e le dà appuntamento per domani a mezzanotte. Vedete che le circostanze sono incalzanti e conto non soltanto che saprete passare sopra un momento di oblio, in fondo dei più scusabili, ma che mi aiuterete a riparare i miei torti verso vostra sorella e a diventare, come desidero ardentemente, suo legittimo sposo.